31 maggio, questa è Banda Armata. Stiamo trasmettendo di fronte all'aula più occupata perché è primavera e fuori c'è il sole, mentre all'interno delle aule, tra i banchi, fa caldo. Ci sono circa 6 telecamere che sono pronte a osservare ogni nostro minimo movimento. Questa università ha speso centinaia di migliaia di euro per il proprio servizio di videosorveglianza. Ci sono circa 11 telecamere per cubo, tra fisse e mobili. Ci sono delle guardie pronte a intervenire per qualsiasi evenienza, pronte a proteggerci per qualsiasi pericolo. Pensate per esempio, provate per esempio a tenere una festa tra amici al centro residenziale, così, tra le vostre stanze di studenti, e vedrete che pochi minuti dopo la mezzanotte un gruppo irreprensibile di guardie verrà a sorvegliare il sonno e la passività di questi luoghi ormai deserti e spenti, privi di ogni tipo di socialità e di sicurezza reale. Provate poi per scherzo a videoriprendere col telefono una vostra amica o una studentessa qualsiasi, magari in uno dei bagni dove sta facendo i propri bisogni. E dopo scappate, scappate per i cubi, scappate sul ponte, non avrete nessun problema perché evidentemente quella studentessa non è un patrimonio di questa università. E poi, a dirla tutta, negli studi di molti dei baroni e dei baronetti di questa università succede anche di peggio. Provate durante le lezioni studentesche a tagliare, magari un po' per dispetto, lo striscione elettorale di qualcuno dei candidati del rettore. Provate poi ad andare via, provate poi a strappare qualche manifesto, provate ad attaccare uno striscione di notte con un messaggio politico che al rettore non va bene. Vedrete che il giorno dopo sarete denunciati, oppure che i vostri striscioni saranno immediatamente cancellati e tolti dalle guardie. E poi provate a farvi picchiare da un branco di frustrati, guapi di quartiere, a pochi metri dalle sbarre di questa università, e non interverrà nessuno. Né in questo deserto sorvegliato di telecamere passerà qualcuno ad aiutarvi. Benvenuti all'Università della Calabria, tempo del Re Sole e museo della sicurezza. Questa è Banda Armata. Vai con la sigla. Gente che gesticola con le armi e tra i nuovi santi illuminati al neon sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione lo studente che si interroga da sé sta covando forse la rivoluzione mentre la signora bene prende il tè. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è? Colpo di Stato, e qui intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione, studenti incriminati per si rafforzerà la polizia perché ha concluso infine il capo protezione. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me. Si è giunta dalla provincia del Sharpe. Mentre tu che fingi poi di aver paura, l'ignoranza è nelle cose che non sai e cerca insomma tu di farti una cultura e giù libri illegati e letti mai. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è? Colpo di Stato, metti la benzina e il colpo prende a te. E c'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è, chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione ha trovato infine le comodità, chi confonde il pranzo con la colazione, chi confonde la salute con l'età. E da migliaia d'anni non cambia la storia, Giulio Cesare, Cavour, testa pelata, e il copione ormai lo san tutti a memoria, e la solita non cambia la menata. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è. Colpo di Stato. Ma lo stadio, aspetta, vengo insieme a te. Ed ecco che esplode l'autostima con il grande Peppe Lounge alla regia, che è uno scoppiettante scoppiettante entusiasmo che ci travolge. E questa è una nuova puntata di Banda Armata, che oggi giovedì 31, che mese siamo, Peppe? Maggio? Andata con maggio, e questa noi ci approfondiamo in questa puntata live, che andrà in replica il giovedì su Radio Ciroma alle 16.30 e su Radio Transizione di Fase, che è un'altra web radio molto, molto sexy, alle ore 21. Giovedì per la festa della Repubblica ci sente Peppe Lounge alla regia. Repubblica di Salò? Sì, quelli gli stessi che hanno gli stessi contributi dell'Ampi. Ah, che bello essere nella Repubblica di Salò. Ah, Salò. Non sbaglio, era una marca di qualcosa, non lo so. Salò. Benissimo. Dopo questa, come dire, questa operazione Enduring Freedom, come direbbe George Bush, procediamo con le nostre importanti rivelazioni che vogliamo con cui vogliamo scoperchiare il mondo. Una di queste cose che da qui ci... il cielo vuole intervenire in questo delirio, oppure vuole lasciare che il delirio faccia da sé? Ha già dato, dici. Tutto questo è una delle cose di cui ci abbiamo l'onore di tornare a parlare. È, guarda un po', una cosa nuova che nessuno si aspetterebbe mai, di cui noi parliamo, che è il referendum. C'è mancato una R, ma non è stata colpa sua, è successo. Il referendum è un appuntamento molto importante per noi italiani, per noi cittadini, perché è uno dei rari momenti in cui abbiamo la possibilità di sembrare che il nostro parere conti qualcosa. Sembrare, però vabbè, è importante anche dare questo segnale anche a noi stessi. È una forma di autostima il referendum. Il referendum sull'acqua è importante ribadire il fatto che il controllo dell'acqua deve essere una cosa che è pubblica, che deve rimanere in mano pubblica, e che dobbiamo strappare questo malevolo decreto Ronchi, che in sostanza vorrebbe la nostra acqua assicurata alle mani del privato e assicurata ai profitti del privato, di conseguenza vorrebbe che il 70% del nostro corpo, che è formato interamente da acqua, fosse assicurato ai profitti privati. E detto questo, l'importante è ribadire, secondo noi, che i due quesiti sul nucleare, sull'acqua, sono due quesiti importanti che partono dal prima di tutto cercano di svincolare il tema l'acqua. Acqua? Acquetta, acqueggiamoci, va bene. Partono da togliere l'obbligatorietà del trasferimento nelle mani del privato della gestione dell'acqua. Questo è un tema importante, che è il primo quesito. Noi crediamo, come tutto che sia, che in qualche modo il controllo non debba essere assecondato alle logiche, alle dinamiche del profitto più scellerato, insomma. Ci basta il profitto un pochino più... più calmierato, insomma. Il secondo quesito che è importante ribadire è che il decreto Ronchi vuole garantire come ritorno di capitale ai privati almeno il 7% di profitto riguardo la gestione dell'acqua, il che come già è evidente in alcuni punti in cui l'acqua è privatizzata non fa che produrre un peggioramento, un aggravamento di quello che sono le condizioni degli impianti idrici. Oltre a questo c'è un innalzamento delle tariffe pazzesco, e in caso in cui ci siano comuni che non riescano a far fronte a questo enorme debito, capita anche che si resta a secco. È un po' come un ritorno alle origini, insomma, è una forma sempre di viaggio interiore questa cosa. Guardate, siccome questa puntata sta diventando una specie di quelle scandalose trasmissioni televisive tipo Ballarò, dove non c'è mai un contraddittorio e parla solo il centro-sinistra, E già che siamo anche in tema di pubblicizzare l'iniziativa che sta preparando il professor Massimo Veltri come presidente dell'associazione, come si chiama? L'Associazione Idrotecnica Italiana, no? Sta organizzando in Ala P2 un'iniziativa dove purtroppo non si trova il contraddittorio, nel senso non si trova qualcuno che è per il no. Allora, se mi permetti, Samuele, lo vorrei fare io il contraddittorio. Posso? No! Già, guardate. Già fatto il contraddittorio. Vabbè, allora non faccio il contraddittorio. Qualche breve riflessione. Va bene. Dico, cioè, questa storia del profitto assicurato del 7% a me sembra una cosa molto ragionevole, sinceramente. Prima cosa di tutto, dobbiamo invogliare... Un po' come il 5 per 1000, insomma. L'8 per 1000, esatto. Forse un po' come l'8 per 1000. Cioè, innanzitutto, per esempio in Calabria, le materie produttive, cioè l'acqua è molto difficile da reperire. Quindi già ci sono una marea di spese, una marea di cose per cui tu devi avere una sicurezza. Uno. Due, oggettivamente la domanda dell'acqua è assolutamente imprevedibile. Cioè, dall'oggi al domani, centinaia di migliaia di famiglie possono decidere di non utilizzare più l'acqua. Quell'azienda che ha voluto investire per garantire il servizio al comune, alla provincia, cose del genere, come pensi che possa... Come pensi che possa poi sopperire agli investimenti fatti per il bene collettivo? Per cui... È una forma di tutela, quindi, questo 7%, diciamo? È una forma di tutela per invogliare gli investimenti delle aziende che decidono di, come dire, arrischiarsi in questo settore spigoloso, scivoloso, che è quello dell'acqua. Per cui io invito a votare sì al primo quesito sull'acqua, perché come principio, insomma, come sempre voi... fricchettoni di sinistra più o meno mababbati, ma poi il secondo quesito io inviterei a votare no. A me viene in mente uno sketch di Troisi in cui, parlando dei mali di Napoli, diceva che c'era l'acquedotto, in cui c'era tanta parte che non funzionava, la questione dell'acqua che non funzionava, e perché tanta parte della popolazione, cioè alcuna parte della popolazione napoletana, non aveva capito come funzionava l'acquedotto. L'acquedotto non funzionava, per bene, ma ci mangiano. Vai Peppe con una canzonaccia. Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolvete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare i salti in banchi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi, uomini boia con la divisa che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi, con gli anfibi sulle facce disarmate, presi a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi, che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la spolpa. Non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaioli impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Non siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi, col busto del duce sugli scrittori e la Costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi, che meritereste d'essere estirpati come la malerba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. che prendate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi, che avete noleggiato costumi da sovrani con fratelli di una loggia che poggia sul valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate Pio, e ciascuno di voi implicato in ogni sorta di reato fissa il magistrato e poi giura su Dio. Non sono stato io. Non sono stato io. Non sono stato io. Salve a tutti che ci sono su Banda Armata. Volevamo concludere la questione del remember sul referendum sull'acqua. Mi raccomando, votate due sì per l'acqua. Un'altra cosa importante da ricordare è che il 12-13 al referendum chi non può scendere può salire, è vero, perché la vita è fatta sostanzialmente a scala, quindi c'è chi scende, c'è chi sale. Detto anche questo, è importante ricordare che c'è uno sconto del 60% dei biglietti ferroviari per chi vuole andare a votare. Per noi, soprattutto che l'università è piena di pendolari, è bene che questa cosa si sappia. Più oltre a questo, è importante sapere che se non vogliamo proprio tornare a casa, possiamo anche votare come rappresentante di lista al collegio in cui ci troviamo più comodi, insomma. E questo, maggiori informazioni si trovano sul sito del Forum per l'Acqua. Detto questo, vedo una barba che si avvicina, una barbetta. Una barba si aggira per l'Europa. È la barba di Cicillo. Ebbene, anche io adesso faccio parte di questa combriccola di disgraziati e scellerati che parlano. Mi fanno perdere un po' di tempo. Ebbene, adesso, dopo che Samuele ci ha spiegato le ragioni del sì e Flavio ha anche giustamente sottolineato le ragioni del no, e quasi quasi mi ha convinto ancora di più a votare sì, diciamo, per questo. Ricordiamo anche che il 12 e il 13 ormai potremmo ribattezzarla come referendum day, visto che anche 6 anni fa, il 12 e 13 giugno, ci fu il referendum per l'abrogazione assistita. Ho controllato prima perché non ricordavo bene. No, ovviamente questi referendari sono 4, come mi piace dire a me, 3 più 1, diciamo, rifacendo un po' mia logica universitaria. Perché su 3, diciamo, le convinzioni sono abbastanza nette e chiare. Sul 4, diciamo che, non lo so, c'è da rifletterci un po' più su, perché l'argomento è più prettamente politico-istituzionale, va, non solo politico. Comunque, al di là dei due quesiti dell'acqua, appunto, come dicevo prima, c'è il quesito sul nucleare, anch'esso molto importante, anzi mi preme ricordare che il quesito sul nucleare al momento ancora c'è e non è stato cancellato dall'uscita televisiva di Berlusconi, che ancora non ha questo potere, diciamo. Scusa, ma il quesito sul nucleare non l'hanno cancellato? Un ascoltatore attento mi fa notare che forse hanno cancellato questo sul nucleare. No, caro ascoltatore, mi dispiace, ma questo sul nucleare ancora c'è. Domani in realtà si esprimerà la consulta per decidere se appunto ammettere o meno definitivamente questo quesito, nonostante le pressioni. Chiedini nella consulta. No, c'è Gesù forse nella consulta, però non ne so, devo controllare bene. No, al di là dei cazzeggi, la questione diciamo che sicuramente è stata affrontata nelle puntate precedenti è abbastanza seria, perché come per bocca stessa del Presidente del Consiglio, questo escamotage per cancellare dalla mente, più che diciamo dal referendum, dalla mente dei cittadini questo appuntamento col nucleare, al momento ancora non è riuscito. E appunto il 12 e il 13 ci toccherà mettere un'altra bella crocetta sul sì per il nucleare, per diciamo andare ancora con più forza verso queste che sono le intenzioni scellerate di questo governo. Infatti dobbiamo ricordarci che appunto per bocca del Presidente del Consiglio lui ha detto che è bene andarci cauto sulle questioni nucleari, quindi è bene prendersi una pausa di un paio d'anni. Nel frattempo diciamo le ombre dei morti di Fukushima se ne saranno andate, così come nostra brava abitudine a scordarci le cose dopo pochi mesi che la televisione non ne parla, e quindi saremo tutti quanti pronti, possibilmente in posizione prona o a 90 gradi, a dire sì sì, il nucleare è bello, tutto sommato piace anche a me. Poi d'altronde ce l'hanno in Francia, ce l'hanno in Slovenia, ce l'hanno forse anche a Lampedusa, ce l'hanno in nucleare, noi non lo sappiamo. Anche l'ultima notizia è che anche a casa mia hanno fatto una centrale nucleare, quindi diciamo le motivazioni con cui il governo vuole portare la costruzione di centrale nucleare in Italia non regge assolutamente, anche perché il fabbisogno energetico italiano diciamo può farne tranquillamente almeno queste centrali nucleari, molto meglio magari una centrale a carbone alle parti Rossano, secondo me diciamo rende di più e anche inquina di più, perché l'obiettivo, non scordiamoci, è duplice, no? Cosa ne pensa il nostro ascoltatore attento? Ma il referendum sul nucleare non l'hanno cancellato? Diciamo che il nostro ascoltatore l'ha lobotomizzato, non ha sentito bene amato niente quello che abbiamo detto finora. Ma Berlusconi che fa in televisione non è la realtà, cioè non è il fabbricante di realtà. Cioè. In effetti siamo tutti dentro Matrix, quindi dovresti aggiornarti, caro Samuele. No, comunque, insomma, diciamo che la questione nucleare è decisamente più complessa, perché al di là del quesito o meno e degli imbrogli o meno del nostro gigante Presidente del Consiglio, sarebbe finalmente il caso di affrontare in maniera seria e un pochino più tranquilla una discussione sull'energia, sul fabbisogno energetico del nostro paese e più in generale diciamo di un approccio verso questo che è un tema importante, quello appunto del consumo energetico all'interno di ogni singola casa, singolo abitante, eccetera eccetera. Vedo che Fabio vuole intervenire, il prossimo attimo però vorrei conoscere quello spettatore, mi ha colpito la profondità del suo intervento. No, giusto due cose importanti da dire così aggiunte sul nucleare. Intanto che la Svizzera e la Germania hanno deciso di dire no al nucleare dopo quello che è successo a Fukushima. La Svizzera, non mi ricordo quale anno, e qui dal cantone svizzero di Girifalco non si ricordano neanche. Mentre la Germania ha deciso nel 2022 di abbandonare il nucleare. Da questo punto di vista sono segnali importanti che vengono poi da due stati in cui, voglio dire, non è che ci sono... Non mi sembra che i governi Pisapia, che è il simbolo del bolscevismo nostrano, diciamo, no? Per cui questo è un segnale importante. Poi c'è da dire una cosa, a me preme sempre dire, che non tutti sanno che... Non tutti sanno... Ma tu sei quello del di prima. Sei russo Pisapia. Si chiama Pisapia, voglio dire, si chiamava in un altro modo, se era giusto. Comunque, dico perché poi sennò la facciamo pesante. Una cosa molto importante, secondo me, da dire, ma non tutti gli italiani sanno che sulla bolletta noi paghiamo una maggiorazione per il progetto nucleare che l'Italia affrontò negli anni Ottanta e che venne poi bloccato dal referendum del 1987. Che cosa accade in buona sostanza? Che imprese nobili, quali, vediamo un po', fammi ricordare una, Enel, oppure Ansaldo, Eni e compagnia bella, cominciarono a investire a manetta sul nucleare, strafottendosene del fatto che magari questa cosa qui sarebbe prima dovuta passare per la volontà popolare. Ci fu il referendum, il progetto nucleare venne abbandonato per volontà popolare e giustamente queste imprese si rivalsero sullo Stato italiano per ottenere i danni del fatto che loro avevano cominciato il progetto. E dal 1989 ad oggi a queste aziende, grazie a una dal cantone svizzero di Girifalco ci dicono che la Svizzera l'abbandonerà nel 2034. Ci chiediamo come mai non l'abbandonerà nel 2347 a questo punto. Comunque è un segnale importante, diciamo. Abbiamo versato con le nostre bollette a questi signori qua circa 10 miliardi di euro. Per cui da questo punto di vista noi il nucleare lo stiamo già pagando pur senza averlo. Diceva benissimo prima Cicillo, il fabbisogno energetico si può coprire con altri mezzi, per cui insomma è una cosa importante andare a votare sì. E questo referendum, molto probabilmente, io mi sbilancio, molto probabilmente ci sarà. Cioè... Sì, credo di sì, effettivamente. Diciamo gli exit poll hanno dato per possibile questa evenienza. Dai, diciamo che siamo fiduciosi. A me mi pare che il sì al referendum era dato al 65%, De Magistris al 23% e la Moratti al 2,7%, se non vado errato, no? Di Sapia non è russo. E in attesa di sapere notizie sulla cancellazione del referendum, che mi sembra ormai scontata, anzi, il decreto tutti i frutti lo ha sicuramente... cancellato, mettiamo un pezzo, vai Peppe. Can tell they had a high five phone, oh boy did they let it blast. music fell. C'est la vie, c'est the old folks. You go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Allora, devo fare tre importanti precisazioni. La prima è che la Svizzera è un cantone di Girifalco ed è importantissimo. La seconda è che Pisapia non è russo. E la terza, che forse non si è capito agli interventi precedenti, è che il referendum sul nucleare c'è. La Moratti che è russa. Però se non sbaglio c'è ancora la commissione di Guzzanti che sta cercando di scoprire se Pisapia è russa o meno. E magari i collegamenti da Pro del KGB va Pisapia. A proposito di commissioni e di... volevo fare un piccolo, se mi consenti, un piccolo passo. Siccome tutti stanno parlando di elezioni, no? E stiamo parlando tutti quanti... cioè, voglio dire, dobbiamo fare anche noi un passaggio di elezioni. Secondo me è nostro dovere manifestare il nostro appoggio politico, sociale e morale ai candidati del centro-sinistra che hanno vinto le elezioni a Milano e Napoli. Per esempio basta citare insomma i primi due interventi dei neosindici. Il primo a dimostrazione di quanto il vento brigatista degli anni di piombo abbia preso possesso del comune di Milano, in risposta ad alcuni, come li hanno chiamati quei bolscevichi di Repubblica, membri dei centri sociali che sono andati dall'ex vice sindaco ad accendere un fumogeno, Pisapia ha detto dal palco: i teppisti non ci rovineranno la festa. Questo già fa capire la caratura del nuovo sindaco, la presa di posizione netta a favore di determinate stanze. La seconda è che De Magistris ha dichiarato che la prima delibera da sindaco sarà sui rifiuti, e noi abbiamo in anteprima quella che sarà la delibera, che sarà l'avvio di un'inchiesta sui rapporti di alcuni cassonetti con membri della massoneria campana. Detto questo, mi viene da ricordare che oltre al referendum la rete di difesa del territorio sta facendo una campagna sulla fine del commissariamento ambientale, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. L'abbiamo detto quella volta, ma usano a memoria. Sono quei 400.000 che ci ascoltano, usano a memoria sui fatti del commissariamento ambientale, basta. Per favore, insomma, cioè, vuoi parlare? Non è russo? Io lo farei parlare perché ci è rimasto male, secondo me fa parlare. Fanno con la testa. Niente. Vabbè, insomma, il commissariamento all'emergenza ambientale è un po' come il commissariamento dell'università, come lo statuto, no? Cioè, noi non vogliamo il commissariamento allo statuto, perché il commissariamento per lo statuto, perché in deroga le mani igienico-sanitarie, perché è chiaro, no? Assolutamente, considerando che c'è, insomma, una situazione igienico-sanitaria qui all'università che è davvero terribile, insomma. Chiediamo appunto che ci sia il commissariamento, perché insomma bisogna andare in bagno con un minimo di tranquillità, insomma vogliamo, non so, un po' di deodorante anche in bagno, insomma è questo. Per cui insomma diciamo, con forza fine del commissariamento dell'Università della Calabria che dura da 13 anni e non ne possiamo più insomma di questo commissario, e fine anche del commissariamento all'emergenza rifiuti calabrese, che se non mi sbaglio è tenuto dalla torre da almeno 20-22 anni, è vero, insomma è chiaro, no? È tutto chiaro. Ma Pisapia di che colore è? Pisapia? Vabbè, dopo un po' di coglionette, che cosa c'è in scaletta, insomma? Se non me lo dice in 3 secondi, ci sono abbiamo qui il referente, sta arrivando da lontano, il referente del comitato Prendo Casa, è qui, ciao, come ti chiami? Buonasera, mi chiamo Cicillo e sono qui, insomma, in veste di referente del comitato Prendo Casa, Cosenza, diciamo. No, niente, va bene, nelle puntate precedenti qualche aggiornamento sulla situazione cosentina di questo, delle disavventure di questo comitato, penso siano state fatte, io sono mancato, chiedo scusa a tutti voi, decine di migliaia di telespettatori che ci ascoltate. Ma mancato da chi? Chi è che ti ha mancato? Ha mancato un proiettile, mi ha mancato. No, un breve aggiornamento su quello che è successo la scorsa settimana e quello che sta succedendo, diciamo, in questi giorni di occupazione. La settimana scorsa il comitato si è recato insieme alle famiglie che stanno occupando i due palazzi ed altre famiglie che si sono avvicinate al comitato presso la sede dell'ATERP, che è appunto l'agenzia territoriale per l'edilizia, residenza pubblica, vale a dire, insomma, l'edilizia popolare, tanto questo altisonante nome per sviare... Comunemente detto i casi popolari. I casi popolari, precisamente, stavo arrivando su quel discorso. E diciamo che dopo due ore di attesa, nonostante avessimo preso anche i numerini che ci sono per ottenere udienza dagli impiegati, dopo due ore di attesa, in ordine sono arrivate, vabbè, le guardie giurate, diciamo, chi è stato anche chiamato a fare gli straordinari, nel senso che era a casa, il permesso è stato richiamato in sede. Poi sono arrivati i carabinieri, la polizia, ovviamente poi la Digos. Siamo riusciti... magari pure i RIS di Parma. Non ce l'hanno fatto, hanno perso l'aereo, i RIS di Parma, se no sarebbero arrivati qualche... siamo riusciti a ottenere udienza con l'ingegner Pietro Mari e a sottoporgli semplicemente alcune domande. Lo so che sembra superfluo sottolinearlo, ma eravamo andati lì diciamo con intenzioni assolutamente pacifiche. Volevamo semplicemente porre delle domande che poi siamo riusciti appunto a porre all'ingegnere, solo che così come ha riportato acutamente un giornalista è stata necessaria la mediazione della Digos per parlare con l'ingegnere. Forse la Digos è un nuovo ritrovato dell'ingegneria culturale che ti permette la mediazione linguistica tra soggettività diverse, insomma. No, la cosa è stata nella tristezza è stata simpatica perché prima che ci ricevesse l'ingegnere Pietro Mari c'erano effettivamente due o tre agenti della Digos che ci riportavano le sue parole, insomma, quindi facevano letteralmente la segreteria, non so, insomma. Questo telefono senza fili, insomma. Essenzialmente le richieste che volevamo porre all'attenzione erano la spiegazione del perché l'assegnazione delle case sono ormai ferme da due anni. Il perché, diciamo, nelle letterine che vengono inviate ai richiedenti casa c'è scritto con una postilla non ci sono case da darvi, mentre solo di accordi con l'università ci sarebbero 8 palazzi circa ristrutturati e vacanti. Avevamo richiesto anche, diciamo, forti dalle dichiarazioni del questore Anzalone, che aveva detto che la questione abitativa non è una questione di ordine pubblico, ma è una questione politica, quindi non da risolvere con sgomberi, ma bensì con eventuali mediazioni, o almeno con discussioni, aperture di tavoli, tra virgolette, istituzionali. Ebbene, diciamo, in risposta a tutto questo è stata necessaria appunto la mediazione della Digos, perché non è una questione di ordine pubblico. Ci è stato risposto che diciamo l'ingegner Pietro Mari è un pochino glissato sull'argomento, ci ha risposto che la colpa principale è quella del comune, che deve stilare le graduatorie e assegnare effettivamente i posti resi disponibili dall'ATERP agli assegnatari, al momento, quindi non essendoci un sindaco al momento dell'irruzione nei palazzi dell'ATERP, non c'era ancora un sindaco, adesso lo abbiamo, quindi ben presto andremo a chiedere spiegazioni anche al neo sindaco, diciamo, gli faremo una gradita sorpresa anche su questo. E la nostra richiesta era appunto quella di un'apertura di un tavolo istituzionale per risolvere il problema dell'emergenza abitativa, che anche l'ingegnere ha riconosciuto esserci in effetti. Non è per fare demagogia o per portare all'attenzione casi umani particolari, ma basta pensare che negli appartamenti che al momento sono occupati dal comitato ci sono persone in cui la domenica prima è crollato il tetto della casa, diciamo, chiamiamolo tetto considerando che aveva un solaio fatto in Eternit. Ci sono famiglie che hanno vissuto per 6 mesi in una macchina, ci sono famiglie che con bambini piccoli vivono letteralmente in delle baracche con i tetti ancora in Ethernet. Voglio dire, non è che un ospizio che noi scellerati manifestanti pericolosi dei centri sociali ci poniamo come obiettivo di fare ogni tanto una puntatina alle case sfitte o disabitate, ma bensì effettivamente c'è un problema da risolvere, un problema serio da risolvere. Tanto più che, insomma, al momento ci sono questi due palazzi occupati che, anzi, vi invitiamo, se volete, a venire a portare la solidarietà a questi occupanti, perché, diciamo, la situazione comunque non è semplice per queste famiglie. Ripeto, si passa da condizioni di assoluta indigenza abitativa comunque a tentare di ricostruire un minimo di dignità alla propria vita. Infatti, la questione ovviamente non è non si ferma semplicemente al diritto alla casa, ma si estende poi ovviamente più là, perché per riacquisire quello che è un minimo di dignità, un minimo di diritto a quello che è l'esistenza, oltre al lavoro di cui tanto i politici ci parlano, appunto esistono anche altri problemi. È chiaro che se non hai un lavoro la casa non te la puoi permettere, quindi che fai? Vai a vivere sotto un ponte? Diciamo che non è una soluzione praticabile. Questo è il breve, diciamo, aggiornamento che volevo fare rispetto a quello che era successo la scorsa settimana. Insomma, al momento l'occupazione prosegue, in realtà siamo in attesa dello sgombero, perché, diciamo, nonostante le belle parole del questore Anzalone, diciamo, lo sgombero è un atto dovuto. La regia mi fa notare che sì, vabbè, la Cosenza è la seconda città italiana dopo Roma per numero di case vuote. Se ne contano nel rapporto Lega Ambiente 2011 165.000 e passa, insomma. Quindi, tanto più se consideriamo l'enorme cementificazione che sta avvenendo nell'area urbana, non solo a Cosenza, per esempio a Velle Parco, ma c'è l'intera zona di 4 Miglia e Company, Montalto, eccetera, eccetera. Insomma, Arcavacata stessa, anche se probabilmente la zona universitaria adesso ci sarà un reflusso a causa delle mega colombaie che il rettore ha deciso di far costruire, 8.000 posti letto, insomma, per richiamare alla base tutti quelli che erano, diciamo, fuori sede nell'essere fuori sede, vale a dire, bisogna avvicinarli il più possibile all'interno dell'università, università priva di alcun genere di servizi per renderla ancora più residenziale. Fermo poi che il venerdì tutti a casa, perché insomma venerdì non bisogna starci all'università. Vai Peppe Lounge. We'll be right back. Beh, dopo questo bellissimo pezzo che ci ha fatto scoprire un po' Peppe, che è un grandissimo esperto del trash anni 80, e, fra l'altro non solo da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista cinematografico, famoso il suo cineforum sui film di Bombole e Lino Banfi. Chiudendo questa piccola parentesi, avviamo il pippotto internazionale. In realtà non sarà un pippotto internazionale, parliamo un po' di quello che è successo a Herat, ovvero dell'attentato in cui sono stati feriti 5 militari italiani. Herat si trova in Afghanistan. E ovviamente, come sempre capita in questi casi, per fortuna questa volta non è morto nessun militare, ma come sempre in questi casi parte la retorica mediatica e della politicanza nostrana sull'importanza delle nostre missioni. Buonasera. Essendo fuori la trasmissione oggi è anche piuttosto folcloristica, e poi purtroppo Peppe, come detto, è conosciuto in alcuni ambienti e quindi è conosciuto in ambienti dark, e quindi torniamo a parlare insomma, di cose serie, almeno una piccola parentesi. Comincia la retorica, un termine che mi ha colpito molto e che è ormai in voga quando si tratta di attentati alle nostre forze di pace, come vengono chiamate, la professionalità dei nostri militari. È una parola che sinceramente soprattutto il ministro La Russa è solito utilizzare, è sostanzialmente agghiacciante. Se si pensa che le nostre forze sono in Africa, le forze NATO, le forze degli Stati Uniti, insomma, la missione ISAF, se non mi sbaglio, sono in Afghanistan dal 2001. Compieranno in questo autunno 10 anni di missione di pace, una terra che non ha avuto nessun tipo di processo di pacificazione, ma che è combattuto tra l'invasione delle forze NATO, delle forze occidentali che vogliono colonizzare quella terra, così come hanno fatto con tantissime altre terre del Medio Oriente, e una resistenza che, dobbiamo dirlo, molto spesso fa ricorso all'integralismo islamico, ma perché probabilmente si tratta dell'unica vera sacca di resistenza che in quel paese insomma si manifesta. Questo non è stato a dimostrazione di quanto sia di pace la nostra missione. Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli attentati proprio alle forze italiane. Abbiamo avuto uno, se non vado errato, a marzo con 4 morti. Anche lì una schifosissima retorica di speculazione sui morti ha sostanzialmente monopolizzato l'agenda politica dei nostri occupanti poltrona. Una cosa molto interessante che di cui ci informa Peace Reporter è che è proprio di quest'anno il primo accordo commerciale fra il governo italiano e il governo afghano. Che cosa si intende per accordo commerciale? Si intende un accordo economico che è stato firmato, così leggo un po' a casaccio sull'articolo di Peace Reporter. Si tratta di un articolo che è stato firmato dal ministro dello sviluppo economico Paolo Romani e da una coalizione di esimi rappresentanti di, indovina un po', Eni, Enel, Enea, Trevi, Maffei, Yat, Fantini, Assomarmo, insomma tutti quei gruppi che hanno fondato, che hanno basato sulla speculazione di, in particolare energetica, sulla speculazione, sull'occupazione di territorio straniero, si pensi al triangolo nel Gige, insomma alle proprie fortune, si pensi che Enel ha chiuso il Delta del Niger, che dice? Ah, quello delle Bermude, il triangolo forse. L'esimio professore di geometria geografica ha dovuto correggere. Stiamo parlando di cose sempre parli di triangolo, non lo so, ma comunque. Si pensi che aziende come queste hanno un fatturato, Enel ha chiuso il 2010 con un fatturato di circa 5 miliardi di euro. E quindi stiamo parlando insomma di veri e propri grossi multinazionali che fanno parte di quei grossi pachidermi prima statali che poi sono stati privatizzati con gli oneri allo Stato, gli onori ai privati, agli amministratori delegati con assegni da decine di migliaia di euro. Per cui, insomma, c'è da stare allegri, forse da un certo punto di vista, perché i cittadini di Crotone, i cittadini di Rossano, i cittadini di del Mercure, forse chiaramente è semplicemente un tentativo di islamatizzazione. Forse l'Enel sarà impegnata nei prossimi mesi a colonizzare l'Afghanistan in guerra. Si pensi che, sempre da un articolo molto interessante di Peace Reporter, accade una cosa molto, molto interessante. Dopo l'ennesimo attacco, attacco aereo di precisione, l'ennesimo attacco di intelligence delle forze NATO, dove sono stati uccisi due bambini e due donne, qualche mese fa i cittadini di questa città, che si chiama Taloka ed è nella parte settentrionale, se non andiamo errato, si sono recati, una delegazione enorme, praticamente tutta la città, si sono recati sotto il comando tedesco con i cadaveri delle persone che erano state attaccate da questo attacco intelligente della NATO. E ovviamente i soldati tedeschi, da buoni missionari di pace quali sono, hanno aperto il fuoco sui dimostranti, causando 12 morti e 85 feriti. Questa è la nostra missione di pace in Afghanistan, per cui ci sentiamo di rimandare assolutamente al mittente questa retorica schifosa che si fa da anni e anni su queste finte missioni di pace che sono guerre. E sono guerre semplici, sono guerre di speculazione, sono guerre di profitto, sono guerre comandate dalle multinazionali dell'energia, del petrolio, delle armi, e sono assolutamente appoggiate tanto dai governi di centrodestra di questa nazione quanto dai governi di centrosinistra. Il rifinanziamento della missione in Afghanistan fu una delle poche cose che riuscì a fare da questo punto di vista il defunto temporaneo governo Prodi. Un'altra piccola riflessione, se la regia mi consente, la volevo fare su un piccolo racconto che ho letto qualche tempo fa, un racconto che si ambientava nel Far West, e che praticamente vedeva lo sceriffo ormai in assoluta difficoltà nel governare i propri cittadini di città. Voi sapete, questi villaggi un po' sperduti nel West americano, che riuscivano poi a riprendere in mano le redini della situazione grazie al colpo grosso, no? Grazie al wanted da $10,000. E questa realtà selvaggia e lontana è quello che sta accadendo negli ultimi mesi. È accaduto per Barack Obama, il vendola degli Stati Uniti, mi verrebbe da dire, che ha sostanzialmente basato la sua ripresa elettorale sulla cattura di un personaggio qualsiasi che era stato così... era lo spauracchio con cui si sono poi prodotte lo spauracchio l'11 settembre, con cui si sono poi prodotte 10 anni di guerra e 10 anni di profitti enormi per le aziende militari. E sta succedendo da ieri, dall'altro ieri, per esempio con la cattura di Mladic. Queste catture non cambiano assolutamente nulla del contesto geopolitico, del contesto sociale in cui per esempio versa la Serbia, non cambia nulla del contesto sociale in cui versa tutto il Medio Oriente e della situazione di occupazione a cui il popolo si oppone come può, si oppone facendo resistenza, e si oppone, non so malgrado, anche con l'integralismo islamico. Questo è l'Occidente, questa è la democrazia del 2011, laddove ci sono ancora gli sceriffi, i ricercati, e laddove non ci sono neanche poi i lettini per curarsi un'appendicite negli ospedali. Scusate lo sproloquio, vai Peppe. We'll be right back. Questa è Banda Armata, volevo ricordare che andiamo in diretta sulle frequenze di Forum the Radio e in replica su Radio C Roma giovedì alle 16.30 e la sera alle 21 su Radio Transizione di Fase. 2 giugno dell'81 moriva Rino Gaetano, l'incidente stradale, e volevo dedicare questa canzone a Rino Gaetano. Questa è la sua prima canzone che parla in maniera profetica di personaggio che muore stradale, che è diventato da 5 stradali, come quel giorno Renzo uscì